America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. President Obama leaves for what's likely to be his last overseas trip as president. Barack Obama è arrivato in Grecia. Avete sentito il newscast della sua partenza ieri sera? È arrivato in Europa per il suo ultimo viaggio all'estero di questa amministrazione. Ecco, devo dire, c'è secondo me un che di simbolico in questo ultimo viaggio, perché Obama ha inaugurato le sue missioni presidenziali, la sua prima missione presidenziale all'estero, con un viaggio in Asia, e lui, nato alle Hawaii, si è autodefinito il primo presidente del Pacifico. In effetti la sua cultura, la sua generazione, la sua preparazione, beh, erano tutte lontane da quella transatlantica che ha caratterizzato tutti gli altri presidenti americani prima di lui. E in fondo Obama è stato il primo presidente nato lontano dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Eppure oggi chiude le sue missioni estere da presidente in Europa. Ecco, ha capito negli 8 anni alla Casa Bianca che il baricentro dell'assetto politico internazionale, soprattutto per gli Stati Uniti, resta l'Europa, il Medio Oriente, l'alleanza NATO. E proprio su questi due temi, NATO e l'importanza di continuare ad imparare facendo il presidente, ecco, devo dire che Obama ieri ci ha detto qualcosa di abbastanza importante nella sua prima conferenza stampa dopo le elezioni che hanno consegnato alla storia l'impossibile, cioè Donald Trump, un candidato che era partito per gioco e che poi è arrivato davvero alla Casa Bianca. Sembra un po' come il film, il grande film Mr. Smith Goes to Washington. Sentiamo. One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the Transatlantic Alliance. Ecco, qui Obama chiarisce che uno dei messaggi importanti che porterà in Europa anche a nome di Trump è l'impegno di continuità che lui ha ascoltato dal presidente eletto nei confronti della NATO. Vi ricordo che dopo la Grecia Obama andrà in Germania. In Germania si incontrerà anche, oltre che la Merkel naturalmente, ma anche con Hollande, anche con Renzi, con la May, insomma, coi grandi leader europei. E Obama ha confermato che Trump gli ha espresso il suo interesse a continuare a sostenere le nostre alleanze oltreoceano. Dice: questo è un bene per gli Stati Uniti, non solo per l'Europa. Precisazione importante questa, perché molti in Europa pensano che Trump voglia chiuderla con la NATO. No, Trump ha detto che l'Europa deve fare la sua parte, che i membri della NATO devono pagare le loro quote. Tra l'altro, le percentuali di cui parla Trump erano percentuali che erano già state concordate e portate avanti proprio dall'amministrazione Obama nel vertice che si è tenuto in Galles qualche anno fa. Ecco, un altro consiglio, un'altra riflessione che ci arriva da un presidente, un presidente di grande intelligenza, arrivato alla fine di questa grande avventura alla guida della più grande democrazia del mondo. Sentiamo. I think what will happen with the president elect is there are going to be certain elements of his temperament that will not serve him well unless he recognizes them and corrects them. Ecco, qui Obama racconta come la Casa Bianca sia una scuola, come l'età dell'informazione, soprattutto in questi ultimi anni, costringe a una continua attenzione, a una continua evoluzione. Non si smette mai di imparare alla Casa Bianca. Si arriva senza sapere che tipo di lavoro si trova, perché nessuno è mai preparato per lavorare alla Casa Bianca. È un lavoro che non ha precedenti e dunque si deve imparare inevitabilmente sul campo. E si sofferma su uno degli aspetti della personalità di Trump che durante le elezioni aveva criticato, cioè la sua imprevedibilità, la sua impreparazione. E qui fa marcia indietro Obama, perché dice: io sono sicuro che lui su alcune tematiche che ha trattato in un certo modo finirà per essere pronto a correggere. Perché? Perché dice: perché alla Casa Bianca si impara. L'ho fatto anch'io, ero molto disorganizzato, per esempio all'inizio del mio mandato, non riuscivo a smaltire tutti i documenti che mi venivano portati. Ho dovuto imparare, ho continuato a imparare e continuo a imparare. Anche di questo, di quello che significa la Casa Bianca, abbiamo parlato. Poi ha fatto qualche esempio su tematiche che secondo lui Trump alla fine si renderà conto che dovrà cambiare, per esempio l'accordo con l'Iran, che è un accordo importante, potranno essere fatte le modifiche magari, ma l'accordo di base che consente all'Iran di rientrare nel contesto delle nazioni che lavorano insieme e soprattutto di smetterla di costruire la bomba atomica, è un passo in avanti importante. Oppure l'ambiente, e abbiamo dimostrato, ha detto Obama, che è possibile crescere e tagliare le emissioni di CO2. Quindi non è che le riforme sull'ambiente abbattono la crescita, anzi. Ecco, questi sono alcuni dei temi. Poi ha aggiunto anche il commercio estero, che secondo Obama aiuta la crescita, di nuovo è importante per aiutare la crescita. Temi su cui, secondo lui, Trump dimostrerà grande pragmatismo. Ecco, sentiamo un ultimo punto che ho identificato per dare un po' l'idea di questo rapporto tra Obama e Trump. I don't think he is ideological. I think ultimately he's pragmatic in that way. That can serve him well, as long as he's got good people around him. Ecco, qui Obama deve esprimere una valutazione sul lavoro pratico di Trump presidente e sull'idea che si è potuto fare nel corso del loro breve incontro, un incontro di un'ora e mezza, di 90 minuti. E Obama dice: non credo che Trump sia un ideologo, credo che sia piuttosto un pragmatico. Questo potrà aiutarlo molto, soprattutto se sarà circondato da buoni consiglieri. Nella nostra conversazione, dice Obama, ha mostrato di essere pronto a recepire messaggi su tematiche sulle quali magari le vedevamo le cose in modo completamente diverso. Dunque mi ha rassicurato il suo tono, perché ha invocato l'unità a sanare le ferite di una lunga campagna, ha sottolineato l'importanza del ruolo dei collaboratori e non ha voluto commentare nomine che hanno destato preoccupazione, per esempio quella di Steve Bannon, che è dell'ultradestra nel contesto del Partito Repubblicano. Insomma, lui scelga chi vuole perché ha bisogno di bilanciare le varie esigenze, quelle di coloro che l'hanno eletto e quelle di coloro a cui cerca di rivolgere il suo messaggio. E se ci riuscirà, se riuscirà a compensare queste due cose, beh, questo sarà molto importante per il futuro dell'America, al quale noi tutti siamo interessati, quindi che costruisca la squadra migliore. Ecco, Obama di fatto ha confermato quello che aveva detto Trump subito dopo il loro incontro, che hanno lavorato insieme, che il tempo degli insulti è finito e si è aperto il tempo per sanare le ferite. Ecco, io credo che in molti dovrebbero ascoltare questo messaggio in arrivo da Trump e da Obama, anche qui da noi, perché continuano ad esserci persone, devo dire, un po' noiose, che continuano ad atteggiarsi, per esempio su Twitter, come se le elezioni non fossero finite, anzi, come se le avessero vinte loro, quindi rivendicano prerogative, minacciano, dicono di andarsi a rifugiare in Messico, insomma, cose, devo dire, bizzarre, forse anche un po' infantili. Ecco, credo che tutti noi, anche qui in Italia, abbiamo molto da imparare da questa lezione di dignità che ci hanno impartito insieme questi due leader, il vincitore e lo sconfitto di queste elezioni, perché ciascuno è stato pronto a muovere un passo nella direzione dell'altro. Ecco, detto tutto questo, la dinamica elettorale lunghissima, a tratti secondo alcuni anche magari un po' noiosa, molto aggressiva, sicuramente interessante, beh, è un esempio di come funziona questa grande democrazia americana, una democrazia costruita da padri fondatori che sapevano di greco e di latino, ai quali domani, nella culla della democrazia ad Atene, Obama renderà omaggio con una visita al Partenone. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, le proteste e gli insulti continuano in alcune delle manifestazioni che ci sono anche in America. Secondo me queste sono sbagliatissime, perché a questo punto, come dicevo, Trump ha vinto, quindi occorre archiviare la fase delle elezioni, la fase della retorica aggressiva e passare invece alla costruzione di un programma su cui poi ci sarà da discutere. Ma gli Stati Uniti sono un paese così pieno di energie, dunque come canzone vi propongo di Joe Pug, Nation of Heat. Across from the prison and beside the Great Lake, below the rooftops and above the highway, the spirits pay rent on the basements they haunt. And the painters just draw pictures of the things that they want. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.